L'Astenia s'era avvicinata a noi, vestita come una dea. La clamide dorata, i capelli raccolti dietro la nuca e adornati da una corona d'oro, gli occhi scintillanti. «Volevo salutarvi nel caso non ci si riveda». Strinse le spalle a Demos, accarezzò la testa di Unai e mi accolse fra le braccia, sussurrandomi all'orecchio. «Se non avessi incontrato te, avrei continuato a rotolarmi nella melma. Tu hai sciolto il mio intrico d'angoscia e ora sono pronta anch'io a combattere per te». L'Astenia. «Sai che sto scrivendo tutta questa storia. Conservo i fogli di papiro in quella cassettina da cui Unai non si separa mai. Inoltre, tutto quello che mi è accaduto fino all'inizio di questa missione è scritto e custodito da Ofione. Se dovesse succedermi qualcosa, continua tu a scriverla. Fanne tante copie, fa che la storia non dimentichi Eudosso e la sua casa del cielo». E le sfiorai gli occhi con un bacio. «Vieni ancora da me. Scioglimi questo intrico d'angoscia e quando il cuore è vago di compiere, compilo tu e combatti tu con me». La tenni stretta al mio cuore. Non volevo che andasse via. «Te lo prometto, Assiotea, ma non ce ne sarà bisogno. Sarai tu a continuare a scrivere questa storia e io continuerò a combattere con te». Tornò al suo posto, emozionata ma illuminata da un'aria nuova da cui traspariva un'indomita nobiltà d'animo. Pleurone, Oleno, Difilo e Peribea facevano parte del nostro gruppo, affidato al comando di Demos. La costa s'avvicinava, l'aulos tacque. Demos scrutava davanti a noi, aguzzando gli occhi. Io stavo al suo fianco, sulla nave regnava un silenzio assoluto. Ad un certo punto si girò, prese a sollevarsi la tunica, se la sfilò gettandola poi dietro di me in un cantuccio, restando nudo. Lingui nel ventre protetti dalla fascia di cuoio da cui scaturivano i coltelli da lancio. Disse a Unai di fare altrettanto. Il fanciullo obbedì, gettando la tunica accanto a quella del padre. Anche Unai indossava una fascia di cuoio adornata di coltelli inseriti in piccole custodie. Demos ordinò ai suoi di prepararsi e tutti si tolsero le tuniche e tutti indossavano le cinture di cuoio. Erano uomini di tutte le età, magri, ma anche se le facce si vedevano patite, i loro occhi brillavano d'una forza pura, di un ardore che la vita misera che avevano condotto non era riuscita a scalfire. Solo quando i suoi uomini, un locos di 150 unità, furono pronti, mi parlò a bassa voce mentre la costa si avvicinava. «Le attuali miniere del Pangeo si trovano là, sulla sinistra, sul fianco di levante della montagna. Le nostre triremi getteranno l'ancora nell'insenatura più grande, proprio davanti all'accampamento delle guardie macedoni, un migliaio circa, dove avrà inizio il teatro dei riti religiosi. Ma ci sono altri due accampamenti di soldati a guardia delle miniere, uno nel vallone tra la collina e il Pangeo con circa 1000 soldati e l'altro proprio sulla cima del monte con qualche centinaio di macedoni. In tutto dovrebbero essere 3000, più un centinaio di cani. Ma noi, tu, io, Unai e i miei uomini, non parteciperemo al teatro». E mi fissò con un'espressione che nelle sue intenzioni forse voleva essere scherzosa, ma che invece divenne un ghigno spietato. Fra poco, prima che qui a bordo accendano le fiaccole per illuminare la scena, noi ci caleremo in mare, il fondale basso, non c'è alcun pericolo di annegare, e approderemo sulla sinistra dove si intravede quel piccolo promontorio. Al di là della collina c'è un sentiero che ci porterà in alto, sulla destra del Pangeo, dove una volta c'erano le antiche miniere d'oro di Scapehile, esaurite e abbandonate da decine di anni. Là andremo noi. Da quelle miniere abbandonate partono dei cunicoli che sbucano proprio accanto allo spiazzo dell'accampamento in alto. Noi siamo soli in 150, ma sfrutteremo il fattore sorpresa e potrebbe darsi che un po' di soldati nel frattempo scendano in spiaggia per farsi benedire dall'Astenia. E poi, se riusciremo a conquistare l'accampamento in alto, che faremo? Cercavo di non far notare la mia paura. Entreremo nella miniera e libereremo migliaia di povere creature schiave. Gli daremo un coltello e vedremo come va a finire. Serrò le labbra fissandomi con quegli occhi da felino che non offrivano alcun indizio di emozione. Tu parlerai, loro ti stanno aspettando da 80 anni. Scuotevo il capo, non riuscivo a condividere tutta la sua sicurezza. E i cani, Demos? Hai detto che i macedoni dispongono di un centinaio di cani addestrati e feroci, mentre noi solo di una ventina. Povero Titano, che ne sa lui di liberazione degli schiavi? Mentre dicevo questo, cominciai a tremare per un ai, per Demos, per l'astenia, per tutta la nave. È un'impresa folle, Demos, non può riuscire, moriremo tutti. E attrassi a me un ai, stringendolo con disperazione. La sua fascia di cuoio piena di coltelli premeva minacciosa sul mio fianco. Proprio in quel momento la nostra trireme si arrestò, mentre l'ammono proseguiva lentamente alla nostra sinistra. Ognuno di noi aveva con sé un piccolo bagaglio da portare dietro la schiena, borracce d'acqua, armi, torce, olio. I rematori travestiti da sacerdoti gettarono funi in mare e i primi del gruppo presero a calarsi in acqua. Regnava un silenzio assoluto. Coridemo venne ad abbracciarmi, una vigorosa stretta alle spalle di Demos, poi emise con un lieve ululo accorato nella direzione dell'altra trireme che subito si fermò. Lentamente il nostro gruppo si calò in mare, quasi per ultimo toccò a Unai, a Titano, a me e a Demos. L'acqua non era fredda, Unai stava attento a Titano affinché non abbaiasse. Avanzavamo nel mare alla luce della luna, mentre la Paralo e l'Ammono avevano ripreso lentamente a dirigersi verso la costa. Io proseguivo scortato da Unai e da Demos. L'acqua arrivava sino al petto, ci muovevamo abbastanza velocemente. Raggiungemmo presto la spiaggia. Si fermarono tutti, aspettarono che Demos si mettesse alla testa del gruppo. Lo seguì. La paura più grande era per i cani, paura che abbaiassero. In breve superammo il tratto di spiaggia e prendemmo ad arrampicarci per un sentiero roccioso. Demos ogni tanto si girava per controllare che il gruppo lo seguisse. Titano mi lambiva le caviglie. Quella notte Selene sembrava un sole. Il cuore in gola, avanzavamo in silenzio, si sentivano solo i respiri forti dei cani. Ancora, ancora più in alto, rare volte mi giravo e trovavo il viso di Unai che mi scrutava. Il silenzioso serpente si snodò per alcune clessidre lungo il sentiero. Le due triremi si erano fermate. Superammo la collina, ci inerpicammo ancora e ancora, e finalmente giungemmo a un angusto spiazzo. Ormai c'era una fitta vegetazione, pini e abeti coprivano tutto il fianco della montagna. Demon si avvicinò a una specie di grotta bloccata da grossi massi. Si fece aiutare, liberarono l'ingresso, cominciammo a entrare. Una volta dentro, accendemmo le torce. Demos dette ordine a due del gruppo di presidiare con un cane dell'entrata. La galleria era bassa e stretta, dovevamo avanzare a capo chino, ma lungo il percorso non c'erano ostacoli. Proseguimmo spediti. Davanti a Demos c'erano due suoi compagni. Non parlavano, non sprecavano una parola. Il mio cuore tremava e quando mi sentivo perduta, allungavo una mano dietro di me. E le dita di Unai o la lingua di Titano mi tranquillizzavano. Non so quanto durò, ma i cani non abbaiarono. Così giungemmo alla fine della galleria scavata nella montagna, ostruita da grossi massi. Demos e gli altri si misero al lavoro, facendo molta attenzione a non far rumore. Spostarono uno, due, tre macigni. La luna cominciava a filtrare, altri massi più piccoli li portavano dentro la galleria. Quando lo spazio fu sufficiente a far passare un uomo, i due compagni di Demos balzarono fuori. Aspettarono, tornarono dentro. Demos uscì e mi tirò dietro di lui. La luna ancora illuminava quasi a giorno il paesaggio, ma entro breve si sarebbe nascosta. Con lo sguardo dominavamo le miniere del Pangeo. Sul declivio collinare che giungeva alla spiaggetta dell'insenatura si scorgeva l'accampamento dei Macedoni. Si intravedevano anche le sagome delle due triremi ancorate quasi al fondo dell'insenatura. A metà montagna, nel vallone ai piedi della collina, l'altro campo militare. Proprio sotto di noi, invece, ardevano tre fuochi. Seduti in circolo, attorno a ogni falò, 4 o 5 soldati, sul lato destro dello spiazzo erboso, lunghe capanne che giungevano fino agli alberi. L'ingresso delle miniere era costituito da due grotte, chiuse con cancellate di ferro. Davanti alle inferriate, alcuni soldati appoggiati al bordo di una vasca piena d'acqua. Demos fece segno a Unai di rientrare nella galleria con Titano. Fece venire fuori una trentina di uomini armati di archi e li depose in posizione per tenere sotto tiro i soldati attorno ai fuochi e quelli vicino alla vasca. Poi fece uscire dal cunicolo uno dopo l'altro tutti i membri del gruppo, facendoli sistemare proprio sopra le capanne. Nella galleria restavano solo Urai e una ventina di uomini con i cani. Tutti guardavano Demos, il quale si spostò, mi volle dietro di lui, sfilò alcuni coltelli a punta dalla sua custodia di cuoio, ne riempì la mano sinistra, poi ne afferrò uno con la mano destra e come un fulmine lo lanciò uno dei due soldati accanto alla vasca. La figura si accasciò. Prese un'altra punta, la lanciò verso l'altro soldato, un gemito soffocato come un singhiozzo, e si accasciò anche lui. Poi Demos chiamò accanto a sé altri quattro compagni, indicando gli uomini attorno al fuoco più vicino a noi. Assieme a Demos si riempirono le mani di punte acuminate. Demos dette il via e tutti e cinque le scagliarono. I soldati macedoni crollarono. Uno fece per rialzarsi, ma Demos lo fulminò con un altro lancio. Demos e i suoi compagni si spostarono per avere una visuale migliore e presero di mira il secondo fuoco. Tre soldati macedoni fecero per reagire, ma vennero fulminati da altri lanci più precisi. A quel punto i soldati attorno al terzo fuoco accennarono a girarsi. Uno provò addirittura ad alzarsi, ma furono colpiti a ripetizione dai coltelli a punta e crollarono anch'essi. Demos dette l'ordine di circondare le capanne. Un altro segnale e il gruppo si depose a ridosso di tutto il perimetro mentre una parte penetrava dentro. Si sentirono dei lamenti, lamenti soffocati, qualche grido strozzato, altri dei nostri sgusciarono all'interno. Tremavo. Pregavo il cielo che quell'ecatombe finisse al più presto. Demos mi proteggeva con le sue mani rapaci. Una specie d'urlo ruppe il silenzio, ma subito uno dei nostri, fuori delle capanne, prese a imitare il grido di una civetta, mentre i rumori erano sempre più sordi, affannosi, urla stroncate. Il mio cuore sembrava impazzito. Demos cercava di tranquillizzarmi. Un altro grido soffocato, altri trambusti che presto si spensero. Le false civette effondevano monotoni richiami alla luna che cominciava a calare. Finché sulla piazzola imbevuta di sangue e di morte scese un silenzio di tomba. Demos fece un segnale a uno dei suoi che si trovava alle nostre spalle. Questi si avvicinò, scoprì la piccola gabbia di ferro. Gli occhi stralunati e spietati di un falco catturarono la vista della luna. Il mio compagno chiuse la grata della gabbia. Il rapace mosse la testolina con piccoli scatti, poi volò via verso il basso, verso il mare, nella direzione dei due triremi ancorati nell'insenatura lontana. Demos mi portò con lui verso i soldati macedoni uccisi, quelli accanto al vascone dell'acqua. Con un coltello tagliò le cinture di cuoio piene di chiavi. Ci avvicinammo alle inferriate, aprì la prima, poi la seconda, e a quel punto volse lo sguardo verso la paralo, la metà superiore della clessidra, sembrava non volersi svuotare mai. Dalle capanne cominciarono a uscire i nostri compagni carichi di armi. Una, due torce, tre torce, un divampare di fiaccole sulle trireme paralo. La nave brillava con i suoi paramenti sacri, con le vistose insegne religiose. Altre torce, un piccolo sole in mezzo al mare, un canto solitario. Poi un coro prese a levarsi dalla trireme. Agli uomini che erano usciti dalle capanne, Demos ordinò di indossare le uniformi dei soldati macedoni uccisi, assieme alle loro armi e di presidiare la piazzola. Poi fece uscire i cani. Una e Titano ci raggiunsero e assieme a un gruppo di una cinquantina di compagni, fra cui Peribea, seguimmo Demos introducendoci nelle viscere della montagna. Penetrammo in due grotte dove dormivano, ammassati uno sopra l'altro, alcune centinaia di schiavi minatori, i quali presero a schiudere gli occhi, sorpresi, sgomenti. Si mettevano in piedi e alla luce delle nostre torce cominciammo a capire. Oltre la metà erano bambini, piccole larve, povere creature nude senza sesso né dignità. Gli schiavi adulti invece erano tutti vecchi, di cui una grande maggioranza donne. Una di esse, completamente nuda, si avvicinò a noi, capelli tagliati a zero come tutti gli altri, occhi vuoti, senza vita né speranza. «Come ti chiami?» le chiesi. Mi fissò mentre un barlume di supplica prendeva a riempire i globi chiari. Elena, ma tu, e mi passò una mano scheletrica sul capo, sui capelli corti. Oggi c'è la luna piena, vero? In una notte come questa, Assiotea doveva venire a liberarci. e sfiorò il mio volto e pregava Demos di avvicinare la torcia e toccava la mia fronte. Le povere dita sfioravano le mie labbra. Dimmi il tuo nome, straniera giunta con Selene, dimmelo. E quel poco di vita che le restava, abbarbicata allo scheletro, sembrava che dipendesse dalla mia risposta. Elena, non so se sono io quella Assiotea che aspettavi, ma il mio nome è Assiotea. E assieme a Demos e a tutti questi amici siamo venuti a liberarvi. La donna cadde in ginocchio. Gli occhi si inumidirono, mi prese una mano fra le sue. Il tuo volto lo conosciamo tutti. Teniamo nascosta la statuina. Ti aspettavamo da tanto tempo. Elena, ma voi dovete aiutarci. Gli uomini, i vostri uomini, i minatori, dove stanno? In altre grotte come queste? E gettavo lo sguardo sgomento su tutte le creaturine che cominciavano ad alzarsi e venire verso di noi. Una di esse, nuda e scalza, una bambina, un povero misero scheletro, si avvicinò, protese la mano verso quella di Elena e poi si afferrò alla mia. La voce della donna era gonfia di rassegnazione. Pochissimi uomini, siamo tutti vecchi, soprattutto bambini. Gli uomini che stavano qui, li hanno liberati quasi tutti, gli hanno dato delle navi, sono diventati pirati al servizio dei Macedoni. E continuava a tenermi attanagliata la mano, come se fosse l'ultimo legame con la vita. Ma voi non avete la forza necessaria per spezzare la roccia. Come fate, Elena? Era stato Demos a parlare, una tempesta d'ansia nella voce. Di lavoro ce n'è poco, l'oro è quasi finito. I pochi uomini che i Macedoni hanno lasciato qua stanno scavando delle gallerie con la speranza di trovare qualche nuova vena d'oro. Nel frattempo, altre larve si erano avvicinate a noi, occhioni sorpresi, sgomenti. Mi inginocchiai davanti a Elena, strinsi fra le mie braccia due esserini, chiesi il loro nome, Carisio, Aroa. Sentii la mano di Demos che mi accarezzava il capo, richiamando la mia attenzione. Sollevai gli occhi. Demos, ferma la carneficina. Prendiamo questi poveretti e andiamocene. Non possiamo. Fra poco è l'alba. Il teatro là sotto è già iniziato. E si mordeva le labbra, il dolore gli offuscava gli occhi. Ma possiamo provarci. Mandiamo a Coridemo l'altro falco per avvertirli e che vengano a coprire la nostra ritirata, ad aspettarci davanti alla stessa spiaggia, sotto la miniera abbandonata di Scapteile. E rivolgendosi a Elena, aiutaci, guida tu i bambini, dobbiamo fare in fretta prima che i soldati della postazione nel vallone si accorgano di quello che sta succedendo. E rivolto a me, Assiotea, prendi il calamo e un foglietto di papiro. Spiega a Coridemo quello che è successo, digli di continuare con la funzione religiosa mentre quelli dell'Ammono vengono a recuperarci. Tirai fuori dalla bisaccia all'occorrente, scrissi la nota, legammo il rotoletto alla zampa del falchetto e Demos si precipitò fuori a liberare il rapace. In un baleno la verità serpeggiò di bocca in bocca. Uscimmo dalla grotta, piccole imbarcazioni stavano dirigendosi verso la triremi illuminata. Demos mandò avanti metà dei suoi uomini. Poi fu la volta mia, di Unai, di Titano, di Elena e dei bambini. Il mio compagno sarebbe venuto per ultimo, assieme al resto del gruppo armato. Incrociai il suo sguardo, che in un momento mi rivelò quanto lui tenesse a me. Stringevo in braccio la prima bambina che mi si era avvicinata, Aroa. Aveva 7 anni, un faccino innocente, due occhioni puri. Non faceva domande. In braccio a me sembrava una scimmietta, un mucchietto d'edera abbarbicata al mio petto. La galleria non finiva mai. Dovevamo sostenere e spingere quei poveri scheletri senza forze. Unai mi incoraggiava, gridandomi che ce l'avremmo fatta, che avremmo salvato tutti gli schiavi bambini e Titano. Ogni tanto mi leccava un piede come a volermi rassicurare anche lui. Alla fine della nostra corsa disperata, sbucammo sul fianco della montagna. Abbandonammo la vecchia miniera a Scapteile. Superammo la collina, sulla spiaggia trovammo una decina di peltasti dell'Ammono che ci aspettavano e cominciammo a lanciarci in mare. Demos mi aveva raggiunta, eravamo quasi a metà cammino quando sulla nostra sinistra apparve minacciosa la sagoma della trireme dei pirati ancorata ad Abdera con la vela bianca e quattro falchi rossi al centro. Pleurone si offrì di andare a parlare per evitare una carneficina. La sua voce era ferma, mentre alzava la testa in modo fiero. Prese a nuotare andando incontro alla trireme, lo vedemmo issato a bordo, discutere, e poi, quando quello che doveva essere il capo, piantargli una spada nella pancia e subito dopo decapitarlo, gettando verso di noi la testa. Aroa prese a singhiozzare. Io mi facevo forza per non piangere. Demos chiese a Unai di chiamare in aiuto quelli dell'Ammono. Mio figlio emise tre dei suoi potentissimi sibili con la bocca, mentre la triremme pirata riprendeva ad avanzare verso di noi. Anche l'Ammono prese a muoversi, mentre Demos faceva schierare tutti gli uomini armati a protezione nostra e dei bambini. Ma pochi avevano archi e frecce, mentre noi eravamo facili bersagli. Quelli dell'Ammono erano ancora troppo lontani per difenderci. Le prime creature cominciarono a cadere, mentre l'alba giungeva, portatrice di morte. I pirati lanciavano le frecce senza mirare, nel mucchio. Demo stonava contro i suoi di non sprecare armi, di tirare a bersaglio sicuro. Gridava a noi di non stare uno accanto all'altro, di diradarci. Ma le frecce continuavano a saettare nella luce dell'alba e i bambini morivano a decine. E così le povere donne che cercavano di proteggerli, assieme a molti uomini del nostro gruppo. Finalmente la mono si era avvicinata. Io correvo nell'acqua con Aroa artigliata al mio cuore e Unai e Demos che mi facevano da scudo. Dalla nostra triremme cominciarono a scagliare frecce incendiarie sulla nave, ma i pirati continuavano a prendere di mira soltanto noi. Poi, quando capirono, per loro fu troppo tardi. La nostra triremme speronò quella dei pirati. E i peltasti di Coridemo saltarono sulla nave ferita, ingaggiando una lotta corpo a corpo. Unai piangeva disperato. Titano era stato colpito da due frecce. Lui aveva cercato di strappargliele, ma il povero cane non ce l'aveva fatta ed era morto annegato. Quasi tutte le donne e i bambini erano stati colpiti, pochissimi erano scampati alla morte. Ma non era finita. I pirati ancora resistevano. Demos organizzò gli uomini rimasti, una trentina, e corse a dare aiuto ai peltasti dell'Ammono. Riuscirono a saltare sulla nave speronata, presero a lanciare coltelli, erano solo morte e sangue. Alla fine vidi Demos saltare in acqua e tornare verso di noi, mentre l'Ammono si sfilava dalla nave pirata e i remi la spingevano verso di noi. Ci aiutarono a salire. Aro era diventata parte del mio corpo, della mia vita. Unai abbracciò me e la bambina mentre Demos parlava con Menandro. Intanto s'udivano urla provenire dall'Aparalo. Ci girammo per vedere cosa succedeva e mentre la luce dell'alba inondava l'insenatura gialla di fuoco, vedemmo decine di piccole imbarcazioni che avevano circondato la trireme. I soldati macedoni scagliavano frecce incendiarie. Quelli che riuscivano ad avvicinarsi assaltavano la nave. Si sentiva la voce possente di Coridemo urlare ordini. La trireme prese a fuggire verso il largo, ma i macedoni erano tanti, tantissimi. Allora Menandro dette ordine ai rematori di fare altrettanto. L'unica salvezza era la velocità delle triremi, la fuga, ma la piccola insenatura era infestata da macedoni. Demos ordinò ai pochi uomini rimasti di mirare bene, una freccia incendiaria per ogni barca. Anch'io e Unai ci mettemmo ad aiutarlo, ad accendere le frecce con la punta avviluppata di lana imbevuta di pece. Io le passavo a Demos, lui tendeva l'arco, mirava, scagliava. Ma anche i soldati macedoni facevano altrettanto e scagliavano su di noi tutto, frecce acuminate, frecce avvelenate, incendiarie. Anche sulla nostra nave piovve la morte. Accanto a me, Peribea stramazzò, il cuore squarciato. Mentre soldati macedoni erano usciti ad arrampicarsi, a saltar dentro. Oleno menava fendenti forsennati con la sua spada. Demos sembrava una tempesta fredda. Non emetteva urla, imbracciava due spade, mi proteggeva, uccideva. Unai venne assalito da due macedoni, riuscì a colpirne uno col coltello, l'altro stava per trapassarlo con la spada da dietro. Demos stava alle mie spalle. Oleno volò in mezzo a noi, offrì il suo ventre. Alla lama macedone cadde di fianco. Unai era ferito e senza armi. Il macedone stava sfilando la spada dal ventre di Oleno quando riuscì a estrarre la punta del mio flauto e la conficcai sul collo del soldato. Lui si volse incredulo, ferito, pieno di sangue, ma Unai aveva raccolto la spada di Oleno e lo colpì da dietro. Menandro incitava i rematori. Stavamo lasciando l'Apparalo indietro. Le urla della battaglia salivano al cielo strazianti. La nostra trireme stava uscendo dalla morsa delle piccole imbarcazioni, ma continuavano a piovere frecce che seminavano la morte. Demo si tolse la cintura dal fianco. Mi ordinò di coprirmi il capo. Non volevo. Lui così restava disarmato. Provai a disubbidirgli. Per Dio, copriti! Era la prima volta che gridava verso di me in quel modo perentorio. Io sono solo uno schiavo. Tu sei diventata un simbolo. Assiotea, devi vivere per quella creatura che hai fra le braccia, perciò copriti per Dio. La sua voce era disperata. Lo feci, mentre la piccola Roa restava abbracciata a me, terrorizzata, il suo piccolo cuore martellava nel mio petto. La Paralo restava sempre più indietro, era come se lentamente venisse inghiottita dai tentacoli delle piccole imbarcazioni. Quando Menandro fece invertire la rotta, Demos fece preparare i suoi uomini e i peltasti superstiti con le ultime armi rimaste a disposizione, le cerbottane con le punte avvelenate. Anche Unai se ne fece consegnare alcune. I soldati macedoni non capivano. Coridemo dovette intuire che era il momento del contrattacco. Anche la Parolo si fermò e cominciò a remare di fianco. Sul mare incendiato prese a riecheggiare il peana dei nostri combattenti superstiti. Con una manovra spericolata, le due navi presero a schiacciare tutte le imbarcazioni che stavano nel mezzo, mentre le frecce avvelenate facevano il resto. In breve, i nostri riuscirono a liberarsi dei tentacoli che li stavano inghiottendo. Poi le due triremi virarono e i rematori dettero fondo a tutte le loro forze per rifugiarsi nel mare aperto. Le prime file delle barche rimaste a galla provavano a inseguirci. Ma ormai l'insenatura era lastricata di corpi, di relitti che galleggiavano bruciando. Non era facile liberarsi di tutti quei rottami, mentre le due triremi, anche se ferite, erano ancora in grado di solcare il mare a velocità sostenuta. Solo quando fummo fuori dalla portata delle frecce macedoni, mi tolsi la fascia di cuoio dal capo. Provai a far sedere Aroa sul legno, ma la bambina non voleva. Con te!» Solo questo riusciva a sussurrare con un filo di voce. Quando ci fummo allontanati dall'isola di Taso, Unai e io, con Aroa e Demos, ci calammo dall'ammo issandoci sulla Paralo. Avevo porto un ultimo bacio sulla fronte di Peribea, di Difilo e di Oleno, serrando le palpebre su quei poveri occhi spalancati sull'abisso della morte. Sulle due navi vennero issate le vele. E riprendemmo il viaggio verso Abido, nell'Ellesponto, sospinti dal respiro del mare. Sulla Paralo ci accolsero Coridemo e Lastenia, ferita a un fianco, il vestito da sacerdotessa bruciacchiato, la paura ancora negli occhi. Mi lanciò un'occhiata gonfia di dolore. Riuscì a prendere la bambina in braccio, a Roma, all'incuore, si fece convincere, ma non mi toglieva gli occhi di dosso. Nel frattempo era cominciata la conta dei morti. E da entrambe le triremi, dopo un breve addio pronunciato dai due comandanti, vennero gettati in mare i cadaveri. Coridemo era ferito in volto, aveva un orecchio insanguinato. Anche Demos era pieno di sangue su una spalla, un fianco, una gamba, un braccio. Per Atene, questa missione è andata comunque bene. Coridemo si era appoggiato alla ghiglia della nave, poi si era inginocchiato e infine seduto. Da oggi il Macedone non potrà sentirsi sicuro, sa che può essere attaccato ovunque, e questo credo che Iperide saprà farlo pesare nell'assemblea. Vuoi consolarmi dicendo che tutti questi morti non sono stati inutili? Aggiunse amaramente Demos. Allungò un braccio, fece una carezza a Unai che stava abbracciato a me. Del Tiaso dei copisti, di 100, ne sono morti 90. Dei miei uomini oltre 80, di 200 dei tuoi peltasti ne sono morti 130. Con un gesto nervoso fece un'altra carezza a Unai. Di 400 coraggiosi che hanno sfidato la morte per liberare queste povere creature, e con un dito sporco di sangue accarezzò il naso della bambina che l'astenia teneva fra le braccia. Di 400 ne sono morti 300. È morto anche Titano e tutti gli altri cani. Sono morti da eroi pure loro. Era stata la voce gonfia di dolore di Unai a intervenire. Certo, figlio mio, sono morti da eroi anche i nostri cani, mentre siamo riusciti a salvare solo questa bambina, aggiunsi io. Povero Pleurone, così pauroso e morto da eroe. Ma una volta i pirati erano schiavi minatori, come possono aver dimenticato? Non riuscivo a capacitarmi. Il maledetto oro. La voce di Coridemo era stato uno schianto d'amarezza. Purtroppo anch'io combattevo solo per denaro. A chi mi offriva di più, io issavo nella mia nave la sua bandiera. Si pulì una bava di sangue che gli colava sul collo. Demos, che pensi di fare ora? Se tu e gli uomini rimasti volete far parte dei miei, siete ben accetti. Tu prenderesti il comando dei miei peltasti più coraggiosi, ma sappi che presto si parte per Olinto e si va alla guerra. Demos scosse la testa. Un'amarezza profonda traspariva dal volto, dalla voce. Grazie della stima, ma devo seguire altre strade. Ti sarei grato se ci permettessi di riposare 2 o 3 giorni nel tuo accampamento ad Abido e se ci facessi tornare ad Atene su una delle tue navi. Menandro dovrà riportare al Pireo proprio questa trireme e, come vedi, di posto adesso ce n'è quanto ne vuoi. E Coridemo passò di nuovo una mano sull'orecchio da cui continuava a colare il sangue, anche egli con i segni della disfatta sul volto. Cercava di non guardare Demos, si capiva che faceva di tutto per non peggiorare lo stato d'animo del mio compagno. Ma quando cercai di restituirgli la fascia di cuoio, Demos si alzò in piedi e la scagliò lontano, urlando disperato. Tutti questi morti sono causa mia, solo mia, e voi tutti lo sapete, e non solo perché io avrei dovuto conoscere la nuova situazione della miniera, perché sarei dovuto venire prima da solo in perlustrazione, da solo per Dio. E gridava, disperato. Da solo mi sarei dovuto infiltrare, nascondere, esplorare, crepare, ma non trascinare tanti innocenti in questa storia che è mia e solo mia, che è vendetta personale, perché quei maledetti bastardi lì, proprio in quello spiazzo, mi hanno tagliato il fallo. E cadde in ginocchio davanti a Coridemo, rifiutando la mia mano tesa. Coridemo lo lasciava sfogare, nascondendosi la faccia stravolta con le mani. E Demos continuò a vomitare dolore e disperazione, con una voce accorata. E va bene, non ero venuto qui prima in perlustrazione, va bene, ma almeno prima di liberare il falco potevo entrare nella miniera, avremmo potuto salvare molte vite, almeno questo dovevo farlo. Invece mi sentivo forte, adesso gliela facevo vedere io a quei bastardi di Macedoni. E piangeva senza ritegno, lacrime che lavavano il volto imbrattato di sangue. E ho liberato il falco, e mentre aprivo la gabbietta, condannavo a morte i miei uomini e i tuoi. Questa è la verità, Coridemo, perché uno che comanda deve valutare tutto, anche l'importanza di un respiro. E piangeva, straziato dal rimorso. A un certo punto, la piccola Aro allungò un braccino scheletrico. Voleva richiamare l'attenzione di Demos. L'astenia si sporse in avanti e la bambina toccò il mio compagno. Lui si volse infuriato, poi incontrò quegli occhi innocenti e placò la sua rabbia e ricambiò il saluto sfiorando la piccola mano protesa in segno di pace. La disperazione di Demos ci aveva scosso tutti. Non sapevo come fare per calmarlo. Trattenendo la mia commozione, mi rivolsi al gigante. Menandro, serve più a te che a noi. Con le mappe che abbiamo aggiornato all'andata, io e Demos ce la caveremo da soli. Lasciaci solo il timoniere pilota. Cercai gli occhi pieni di pianto del mio compagno. Questa nave la riportiamo noi al Pireo. Lo stratega Tierarca annuì con un cenno conciliatore. Si levò un vento etesio misericordioso che prese a spingere la nave nella direzione di Levante, verso l'Ellesponto.